eccoci qua nuovamente. State ascoltando, vi ricordo, Indie Radio, un programma di informazione indipendente che potete ascoltare ogni giovedì alle ore 18 su Fuori Onda Radio, mentre ogni venerdì potete riascoltarlo o ascoltare una nuova versione in genere alle ore 21 su Radio Transizione di Fase, che trovate all'indirizzo transizionedifase.org. Dunque, abbiamo parlato di ambiente e continuiamo a farlo ricordando un appuntamento del 19 gennaio prossimo, cioè sabato, a Cosenza. Infatti, dopo aver consegnato i moduli a Reggio venerdì scorso, una notizia di cui vi abbiamo già dato conto nella scorsa settimana, si parte con la campagna di raccolta firma relativa alla proposta di legge. Quindi sabato 19 presso l'auditorium del Liceo Telesio di Cosenza ci sarà una giornata seminariale organizzata insieme a Terre Comuni, centrata sull'acqua, sotto vari aspetti, dalla spiegazione dettagliata della proposta di legge ad aspetti culturali del bene comune acqua. È fondamentale essere presenti sabato, anche perché verranno distribuiti i materiali relativi alla campagna di raccolta firme, i manifesti e ovviamente i moduli per raccogliere le firme. E quindi anche da questi microfoni vi preghiamo di essere presenti e di spargere la voce sulle vostre reti, fra i vostri amici, fra i vostri conoscenti. Ora invece io direi di ascoltare un altro brano e poi parleremo di quello che sta accadendo a Piano Lago, dove alcune persone rischiano il posto di lavoro. Ma prima ascoltiamo una musica proveniente dal Giappone, non lo direste mai, però ascoltatela perché ne vale veramente la pena. Olivia Lufkin, una musicista che proviene dal Giappone e che comunque produce musica a nostro avviso molto interessante. Ma ora continuiamo a parlare di informazioni e parliamo ancora una volta di licenziamenti ai noi a Piano Lago, una zona industriale vicino a Cosenza. Dunque, in questa fabbrica c'è stato anche un presidio il 16 gennaio scorso per protestare contro i licenziamenti di Liuterm e l'Azzurra. E ora leggiamo l'unica notizia che in realtà abbiamo trovato, perché la leggiamo. Una nota della FIOM CGIL. La Liutirom SNC, azienda che assembla pezzi per conto di Alfagom SPA con sede a Pianolago, zona industriale di Cosenza, licenzia 13 lavoratori su 27 in organico, motivando i licenziamenti con la crisi aziendale in atto. Dei licenziati in cassa integrazione, guadagni zero, 11 sono donne, chissà perché, e due uomini. I licenziamenti individuali arrivano senza un solo giorno di preavviso tra Natale e Capodanno appena trascorsi. Un bel regalo, aggiungiamo noi. Peraltro, essendo la Liutirom prima di cedere in maniera fittizia un ramo d'azienda con più di 15 dipendenti e avendo proceduto a licenziare più di 5 dipendenti, secondo la legge numero 223 del 1991, sarebbe stata obbligata a procedere a un licenziamento collettivo con tutte le garanzie che quella legge prevede: consultazioni sindacali, predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare secondo le previsioni contrattuali e di legge, con maggiori tutele per quelli più anziani e con carichi familiari. Ma succede che l'azienda, proprio nel 2012, ha ceduto un ramo aziendale dando vita a due distinte aziende, la Liutirom e l'Azzurra, ciascuna delle quali con meno di 15 dipendenti. Per di più, ciascuna delle due nuove aziende continua a far capo al medesimo nucleo familiare. L'attività aziendale si svolge nello stesso luogo in cui si svolgeva prima della cessione, a utilizzare i medesimi macchinari e ad avere lo stesso oggetto, cioè assemblaggio pezzi per l'Alfagom SPA. Non solo, ma colpisce anche la scelta aziendale di non usufruire della cassa integrazione rimasta, oppure, considerati il numero di lavoratori licenziati, si sarebbe potuto procedere con un licenziamento collettivo, garantendo ai lavoratori licenziati la medesima mobilità, infatti, con gli ammortizzatori sociali ancora previsti dalla legge, posto che l'Istituto della Mobilità nella riforma Fornero, che ha iniziato la sua valenza dal 1 gennaio di questo anno, andrà a regime solo dal 2017 e solo da quel momento entrerà in vigore per tutti il solo istituto dell'ASPI. Pertanto tutti i lavoratori licenziati avevano diritto a tutta la mobilità maturata. Ultima singolare, ma non forse tanto, coincidenza: tutti i lavoratori licenziati erano proprio e solo quelli che, avendo preso coscienza dei propri diritti, si erano iscritti al sindacato. Non solo, erano anche quelli con più anzianità e quindi più capaci e produttivi alle macchine. Diventa dunque quasi irridente la motivazione adotta dall'azienda secondo la quale, nella scelta fatta dagli individui nell'individuare gli esuberi con tali licenziamenti, si volesse garantire la produttività, a meno che la strada non sia quella oggi molto in voga e per di più nei fatti rivelatasi perdente, di diminuire il costo del lavoro facendo strage di diritti del lavoro e delle garanzie dei lavoratori. Quindi la lotta all'Alfagomme continuerà sicuramente e speriamo di avere altre informazioni di prima mano rispetto a questa battaglia. Certamente a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici colpite da questa ingiusto provvedimento va tutta la nostra vicinanza e complicità, e speriamo che si risolva per il meglio questa triste situazione. Ma ora ascoltiamo un altro po' di musica e cambiamo totalmente registro rispetto ai precedenti ascolti, quindi ascoltiamo Brigata da Cani. Brigata Cani da Birra, che è un gruppo veramente folle, però a noi piace molto, quindi buon ascolto sempre su Radio Fuori Onda Radio, in diretta qui dall'aula P2 dell'Università della Calabria. Sento nell'aria un cattivo odore, tutto ad un tratto capisco che le merde fasciste stanno arrivando. La lotta di strada chiama anche me, finché ogni fascio non sarà piegato, finché ogni agguato non sarà vendicato e finché ci saranno nazi sulla terra, la nostra vita sarà una guerra. La loro esistenza è contro di loro, nessuna pietà, finché l'abuso non sarà punito, finché sopra l'abuso non sarà finito finché ci sarà questa centaglia. La nostra vita sarà una battaglia. Senza un perché, gli servi faranno passare la voglia di farsi chiamare ancora skinhead, finché le loro idee non saranno morte, finché non sarà segnata la loro sorte, finché non sarà stata data l'ultima botta, la nostra vita sarà una lotta. Abbiamo ascoltato Brigata Cani da Birra e...